Peter in central Sweden. Have you tried out the DTMF tones 51 to 56? Are you ready? Enjoy. Fuck you! Cane di fruscia! E beh, dove? Buonasera! Aspetta che mi metto in posizione! Ah, fai cosa? Mi avvicino al mobile con il radio, capito? Ah, così? Vabbè. C'è il mobile con le rotelline che me lo posso avvicinare al letto così mi straio. Io sono un gomolo. Sì, fai così fa. Come sto uscendo? Cosa? Come sto uscendo? Ti ho cambiato microfono. Ma già va bene. Oh, perché sto usando l'MP4. Già va bene. È una bella radio, dai. Non è fortissima, però è buona. Cosa vuoi dire? C'è a volte. Beh, l'MP4 è amplificato, al massimo ce l'hai. No, ce l'ho a... sì. Sì, a sì. Prova a metterlo al massimo. Guarda a vedere adesso. Adesso è bello amplificato. E ma mi è di più normale che... c'è amplificata. Ma tu è inutile che hai la Ferrari, per cui farla andare a 30 all'ora. Ma dove mi stavo dentro? In certe vie devi entrare a 30 all'ora. Sì, ho visto, sì. È un casino, eh. 30 è troppo poco, dai, io. È una cosa inaccettabile, brutto. Oh, purtroppo, è così. Vogliamo farti andare piano, è una macchina adolescente. Sì, ma se andà fuori è una sazzata quando si vola. Magari mi sono la tua Velox. Infatti così. Adesso trovi la tua Velox. Ma stavano dicendo che non ce n'è una regola, se ne fai causa. Non sono omologati quegli autovelox, non ti possono fare la ruta, lo sai. Infatti. Ma di chi? Chi ne c'è qualcuno? Mi arrabbiaggio. Vita è di Biasi. Allora, prima cosa vogliono omologati e poi ogni 6 mesi devono fare la taratura. Ma non loro, non i vigili urbani col cacciavite, no? Lo devono mandare in un centro specializzato a fare la taratura del chilometraggio. E infatti, quello che stavo dicendo io l'altro giorno, che vogliono tararti per queste cose qua. In prima cosa vogliono omologarti, gli apparecchi che hanno qua non sono omologati, quelli che stanno usando non sono omologati. Speriamo che non ne bongiani, specialmente a Pozzodorra. Io passo sempre dalla Buttibuti, non ci passo mai dall'aceto 31, perché sull'aceto 31 devi singheggiare sempre. Sulla Buttibuti io, guarda, ho lavorato tanti anni, se ho visto l'autoveloce una o due volte è troppo. No, sulla Buttibuti non ce n'è, non li hanno messo. Neanche sulla 131 li hanno messo. No, ma non è che li mettono, no, lì praticamente si mettono loro con l'autovelox, la polizia stradale e i vigili urbani. Vabbè, io ci sono sempre, anche qua scendendo sulla Budibudi, una strada nuova, anche lì si mettono, però la domenica non la c'è. E li trovi dove c'è quel meccanico, dove c'è la fermata del tram, che c'è quel meccanico che vende quelle moto strane, lì lo trovi. Una volta mi ha fregato lì a me. Si stanno mettendo anche qua di fronte alla chiesa, mi si stanno mettendo. Aspetta, quando è che c'erano? Ieri mi sembra, ieri mattina c'erano. Ma lì sei praticamente obbligato a rallentare perché ci sono quegli avvallamenti. Alla fine ne varano la maretta, ne varano. Però non rallentano nemmeno, intende, boom. Si intende? Chiatta. basta una signora, non ne farà da manetta, ne farà da una macchina. E magari non sanno che ci sono quelle cadavalamenti per rallentare e ti facci la macchina e così. E la cadavalamenti sono fatti in modo che tu rallenti e vai piano piano lì, quel punto. E infatti è così, devi rallentare in quel pezzo. Deve rallentare e passare piano, invece no, deve fare una manetta, vroom, vroom, chiatta, agito. Allora ci ha lasciato, questa signora ci ha lasciato un pezzo in terra, ma non ne ha fottuto nulla, Che, ma le donne sono fatte così, camminano anche con la macchina senza paraurti, facciano in tutte le lati. Certo. Io voglio già la seconda volta che faccio per il porto di Berne, nello sterzo, scusi, i tiranti, ci ho rimesso. La prima va, faccio da Giambà un semiasse, faccio da Giambà, il piantone dello sterzo, quello piccolo, faccio da Giambà. Quindi anche la centralina vuole il piantone costerà sui 400 euro. No, è quello piccolo, costa 130 euro, 150 quello originale, va. Quello della Y, della Lancia Y, l'ha preso un'amica mia da poco, l'ha preso a seconda mano perché costava troppo, l'ha preso revisionato, ha pagato 200 euro. Però costava 400, 3,80 mi pare 400. No, da me già costa poco quel pezzo. Ecco il tambero se mi asse, perché il destro è molto lungo. Ma non riesce già a vedere troppa cosa, diciamo. No, io se tu oggi ho cambiato soltanto il perni adesso, questa è la seconda volta, stavolta che andrò a giubilata nuova, mi dà Giambà di Meliena subito, mi ha fatto Giambà, e tirate mi ha fatto, l'ha portata al gommista, ha fatto la convergenza, l'ha fatto, e mi era dato da appunto. Ad preso in carne e si sono tornato a ballare. Quello lì è come per i fusi e cose, me lo già. Perché le strade qua, se va per la niente, non vorrei vista quella strada, guarda. Quella che va verso Città Mercato, passando dalla centrale del latte lì, a Zuanna, non si può fare quella strada. E qua la faccio due volte alla settimana, la faccio. Io sono fatto due volte alla ghetta, ma non ando piano, cerco di scartare i fusi adesso. E ne scarti uno in bigli due? Hai ragione, ne scarti uno in bigli due, se no quattro. Ma sono, cioè, siccome è consorziale quella zona lì, non dipende dal comune, dipende dal consorzio praticamente di tutti i venditori che ci sono, dovrebbero mettere un tanto a testa e farlo, invece non li guazzini, capito? Ma ancora ruzzi, i lampioni, la sappi, un usi e mezzo sudati. Si è abbandonata questa zona, si quando la gente o i vigili urbani le chiudono la strada perché non è più transitabile, una strada così, ma che campagna bisogna che si russi. Certo, non lo so qui, ci deve darci tutta distrutta sta garrida. Tanto già te ne faccio dura la macchina. Eccolo già. Se no quella che c'è partendo da Vesti si va andando verso il centro Carni. Certo, tutto bussi lo mattesi muricchi. Il comune ha detto che la faceva aggiustare quella lì, e invece mi pare è rimasta a conto Giulio. Perché è consorziale, non è comunale, magari sono riformati e fa parte al consorzio quella lì. E il consorzio di tutti i venditori, capito, dovrebbero mettere un tanto a testa per far aggiustare tutto. Ah, ma il fatto che il consorzio ce n'ha tutti, ecco cosa è. Mi pare che abbia fallito il consorzio. Non so che dirti, comunque non è una strada transitabile in macchina quella, ma qui il carretto vai da dove va, perché è tutta fusi, ti non vedi la macchina. Infatti la Maiella avrà detto, catta, tu me ne hai giambati, zincanne va, va, io so porre il ballato e me ne hai giambati. Ah va, che tu mi devi stare durato, zincanne, ha detto. Sino a consumarsi. Perché sfarfalla la macchina, capito? Quando trova il fusi sfarfalla. Sono falla oggi, sono falla domani, rimbalzano le ruote, anche se ci sono gli ammortizzatori, però lo sfarfalla lo stesso. Alla fine poi ti imbarra tutti i ruoti, tutto gatto, il cuscinetto. Certo, andiamo. Lì adesso, a giugno, quando finisce la scuola dei nipoti, guardo a vedere se due vete mi ripiglio originali, mi ripiglio. Spendo quello che spendo. E mi rabbozzo io, anche Meglienna ha detto che si è stufato di farmi la macchina. Così. Allora, ha detto che non me ne tocca più. Ma gli spetti sta facendo. Ha detto quanto che ti devo dare denaro e ancora non gli ho fatto il conto che non ha più di denaro ti arrangi, ha detto. Vabbè, magari la buffonetta che da novembre, ha detto quanto che ti devo dare e ancora non mi ha fatto i conti e magari non vuole nulla. Mi piace a me così, già, a me non mi piace, io pago come pagano gli altri. Lo so, ma a volte, capito, ti viene a te il fatto di non farti pagare perché sei un parente. Anche a me non mi piace, quando paghi almeno sei tranquillo. Qua se prendo le semiacce originali e il coso, la prendo e la porto da un altro, e me la porto qua. Sì, dai. E beh, se non ti pigliano da un casino, solo che si offende, se sai che le porto un altro si offende, a molti li vado a vivo. Ehi, la daglia la batte offesa, che? La daglia, vecchio baello. Ma tu in grado di fartela, sì? Ma perché no? Gli metto due cavalletti, il carrellino per esagliarti sotto, ce l'ho con le rotelle, quindi piano piano è centro sotto, e piano piano me la volta, dopo devo smontare il pezzo del collo della ruota, ma lo centrale, l'ammortizzatore è un altro pezzo, lo giri appena, e metto le semiacce, c'è un filo nuovo, e poi avvolge tutto. E a parole già è facile a farlo, Guarda che l'ho fatta anche al coso mio, alla Fordo Fiesta me l'avevo fatta io, E mio genero mi ha detto, chi l'ha fatto questo qua? Tu mi hai che l'aveva portata, hai detto, andi sul lungo, me l'ho fatto io. Poi mi chiamava detto in sotto, me l'ha fatto io. Sotto casa, eh? Ehi, sotto dentro il portico, sotto il portico, là. Vabbè. Qui c'è proprio, non ti bagni. Ma se c'è chi te lo fa a sapere che tu c'hai già una certa età a stare inchinato così magari ti viene i dolori. Mi viene oggi, domani, a dare gli ami bassani. Così. E se ti vengono i crappi come venivano a me, adesso la gamba mi sono passati, e voilà, viene via la mano, ma mi stanno passando anche lì. E lì sapevo far fare risonanza magnetica, domani devo fare la lastra, la mano, mi sa che mi sta facendo fare cose che non c'entrano nulla, e ando da uno osteopata e mi faccio abbassare tutto. Tu prendi il pendidinato e prendi il pendidinato. Aspetta, la risonanza costa un bel mi, cioè 300 euro, costa 280 300. Pensa un poco, ma cosa non darò? Niente. È maledetto che non vi sono lui, tutto occupato, non c'è posto. Vedi, è un bel casotto. Sì, è un bel casotto, sì. Certo. 300 euro. Quella risonanza non è quella che ci stai un mese sotto, l'hai fatta. La risonanza, sì. Una mezz'oretta ti tengo. Sì, è più di un'oretta, ma nel dentro. Quando sono caduto nelle scale, ma gli è passato un gambo, ma ne butto quattro punti. Ma non fa, poi a come mi hanno portato su e mi hanno fatto la risonanza. Non l'ho fatto. Diciamo, meno male non c'ha nulla. Ecco, se ti avessi un'ora fermi in mobile. Oh, ci sono stato una mezz'oretta, ci sono stato. Oh, tra una cosa e l'altra, visto che è stata un'ora, fa il cine. Mezz'ora è mobile, così, lui, per me è una morte. Eppure deve rimanere. Ma no, tutto quanto no. Sino al collo me l'hanno fatta. Sì, perché tu rubi la testa, ma io la devo fare il vaccino. Vaccino è anche. Sì, c'è ancora Biggio. Lì non può rimanere un'oretta per rimanere. Che faccio con un pipo? No, quello che ho fatto io all'ospedale era silenzioso, non ti intendi a nulla. A me mi avevano messo le cuffie una volta che l'ho fatto, facevano dei rumori, sentivano i rumori lo stesso con le cuffie, sentivano lo stesso rumori, poi si apparteranno fuori. No, io quando l'ho fatto io all'ospedale, mi ha detto a chiudere gli occhi, ma avevano detto di tenere gli occhi chiusi, già me lo dicevano loro quando aprì. Invece è stato un bel poco luce già radio. Poi di tanto mi ha detto apra gli occhi, abbiamo finito. E ti sei dormito? Non me lo dire, ti faccio mai, vero ma vero. E beh, se ti trova la macchina non intendi nulla. Cosa c'è scindato che ti viene, mamma, da girarti, da muoverti, magari ti faccio male un'altra, non ti muovo qui, cazzo. Infatti. Me ne sono andato a fura e devo aspettare quello del terzo piano qua. Che mi fa prendere lui. Agitendi. Ogni tanto mi veniva. L'odorore mi veniva. Cata, a tutti i piedi. L'anestesia gli era come insegnare a allontanarsi. Andarsi di così. Ecco così intendiamo. E vabbè, adesso ci sono macchinari nuovi e diversi, quando l'ho fatto io tanti anni fa. Non mi ricordo dove l'avevo fatta, lo sai, forse l'ho fatta. L'ho fatta, ho visto in via Gorizia su. La cosa, no? Di, no, cioè quella parte io ho fatto una lastra, mi pare. Ma lungo mi pare sì. Ma lungo mi pare sì, Gianni. Lì sono stato, cavolo, mezz'ora, non mi faccio male, che mi faccio male l'acqua, non mi viene operata ancora, mi faccio male, ma no. Dicevo a cazzo, speriamo che faccia fretta, stavo pregando che finisce subito dal dolore che c'aveva. No, a me lì ho fatto la lastra alla colonna vertebrale, però quasi vicino al collo l'avevo fatta. Ah, capito. E vabbè. Insomma, di tutto di più. Ma ha detto lì c'è, le cose cervicale, ma vi ha detto. E quello se lo tiene per tutta la vita, fino a quando se ne va. Artrosi cervicale. Sì. Piano di deportazione di... Le cose così, ma vi ha detto. Ma se ne è andato nei quasi mari, ma devo resistere. E non so, ti prende a capogiro, ti sdoppia la vista, fa tutte queste cose. No, per fortuna l'insulina non mi viene. Mi viene soltanto una specie di dolore dietro e basta. Piccolo dolorino. Vabbè. Interessante andare avanti, dove devi fare. Dipende, chi scende da là. Fate così. Io voto l'unica cosa. Resisti. Piano piano, cerca di muoviti, muovere le spalle, e il dolore ti passa. Il calore ti fa passare molti dolori. Io ho scoperto che con la borsa dell'acqua calda che mi sono comprato dai cinesi, mi passa il dolore. Mi scalda la parte e mi passa il dolore. Quello sì che te lo fa passare. A me me lo fate passare un rito. Guarda, io mi pare 3 o 4 euro l'ho pagata in offerta. È piccolina, te la puoi filare anche nella mano, perché è tipo una sacca che ha 2 spazi davanti e dietro. Puoi filarci la mano dentro, se ti fa male la mano, io la sto facendo così. Quello che sto al dottore mezzo mi ha confermato che il calore fa bene a lui. Maggio drenaggio di disio, ricaricabile. E mi ha dato di poco un faggio a Cagli. Una ce l'abbiamo mia moglie e una io. Io la metto quasi ogni giorno, guardo il televisore, cosa, e mi scaldo la parte che mi fa male. E mi passa, e sono micidiale. Ma dietro non la posso tenere più di tanto, perché se dietro se la tieni molto c'hai i polmoni e ti si asciuttano i bugnoni. Sì, no, ma poi brucia, vabbè, a volte non la resisto. Ma mi ha detto il medico di non tenerla più di 5 minuti dietro, che fai alternata, hai compreso? Allora, un po' di volte me la pongo nelle ginocchia, nelle mani, che hanno maggiori le mani ghiacciate. E fa bene, sì. E dove mi fa bene? Il dottore me l'ha detto, mi ha detto che faccio un bene a metterla perché fa bene giù il calore. Sì, infatti, va bene al calore, però a Darido stare dietro dove sto dicendo io, che sta asciutta i polmoni, da asciutta, e così non andava bene. Non mi fermava anche dietro, non mi piace. Non è tanto, io non voglio. Però più che altro, la notte che hanno sbucato, che mi metto dritto, ecco la faccia in naso, per tenere rilassato un po' la schiena. Intendo la vibrazione, la sento molte volte. Vabbè, vabbè, già. Dappa, gli siamo avanti. Ah sì, io sì. Poi. Fate, un po' di volte il romanzano che non me ne beso. Forse le 4 meno un quarto. Ma in bagno. E qualche volta prendo appena appena di freddo, che non mi sento recucà. Tendo un dolore, intendo. Sì, perché come stai fermo, ti prego. Anche quando stai seduto per molto tempo, tu per alzarti, alleluia. Quello te lo fa. Un sacco di volte te lo fa quello coso lì. Devi ripristinare tutti i movimenti. A che ti inciccia. Sei proprio incriccato. Ho chiesto attorno alla dottoressa, le ho chiesto se c'era, se mi faceva impegnativo per fare altre 10 sedute con il laser. E mi ha detto, ma lei è matto. Certo, sono matto. Perché oggi? Semmai posso far fare impegnativo per farsi massaggiare. Ah, dico, anche quello va benissimo. Sì, ma il fatto è che deve pagare anche. Vabbè, pagheremo, dice che 10 sedute gli bastano. Sì che mi bastano, ha detto. Dopo invece non mi sono andato. E potevo andare dalle cinesine che fanno massaggio con regalino. Sì, tette. Ci mette lì se nell'ultima volta che sono andato, certo, mi ha fatto venire. Mi faceva venire il dolore, mi faceva venire, no, dico mai più, mi dovrà venire ai occhi. Ma dalle cinesi? Ehi, tra queste 2 cinesine, brave, sono brave, però, che hanno di buone labbra, va bene, mi adorori. Ti brucia. No, guarda, toglimela perché non ce la faccio più. No, no, 5 minuti la devi tenere. Ma ti cacci, no, toglimela, già te la puoi dare un uro. Se sì, l'ho più trancata. E allora metto i macabri di fare le cose. Anche gli osteopati sono molto violenti, cazzo, facendo quei movimenti. Mi droccare in luce per battesimo, mi metti già sul cantone. Poi con i gomiti a Barello di Badiani Zucca a luce di Badiani Zucca e quindi a tra agito ui. E non è questo centro di massaggi cinese? Ma core non ti sento più. Sono andati vicino a cosa sono andati? Vicino alla parte dove c'è la Nuova Sardegna. Lì si sono trasferiti, gli hanno trovato il locale più grande e si sono trasferiti lì. Ma prenda lì? Vicino alla Nuova Sardegna. Non lo so dove. Non lo so dove è la Nuova Sardegna, non ci sono mai andato. Hai visto dove c'è quell'aereo a testa in giù? Di fronte c'è la via, c'è. Entri nella via e vai in fondo e c'è la Nuova Sardegna. Sì, ho capito. E loro sono di fronte? No, sono al lato destro della Nuova Sardegna stesso. È una palazzina, entri dentro, c'è il cancello. Cancello, mi pare che sia marrone, cancello. Entri dentro, suoni e ti aprono. E ti dicono cosa devi fare. E ti fanno aspettare. Ma un bel figlio, dipende da cosa devi fare. Io avevo speso 270 euro, avevo speso il giorno. Ma quando me ne sono chiamato da tivi così abbiamo zuccato tutti e dove fanno zuccare le ossa, certo, ed ero rilassato però un bel po' sono stato senza dolori e oggi sono turati. Allora mi sono turrendi, non turrati, mi sono turrendi. Fate un altro, ma anche il regalino ti hanno fatto pure. No, regalino no, sono serie queste qua. Altro che sono serie anche. C'è questa signora qua, quando vai a pagare, ti lascia la ricevuta. Puoi scaricare quindi. Sì, te la puoi scaricare, io me l'avevo scaricata col 730. Basta che paghi col bancomat, perché se paghi i contanti non puoi scaricare, lo sai. Sì, devi pagare col bancomat, devi pagare. Ecco cos'è, devi pagare col bancomat. Ma la sapessi, però il prezzo è troppo alto, costa troppo. Ma tu devi vedere cosa ho fatto io però. Certo. Ho fatto un bel cosa mi, anche con i gomiti, mi si è poi andata con le ginocchia anche, e mi ha tirato i bracci, mi ha tirato. E non ti sono uscite fuori. No, gli alzano loro come metterti e tirare. Poi a parte di giù sentivo le ginocchia che quando muovevano loro sentivo prato. E ti va già che non me ne sono cominciato, ero dritto. Ma mi ha fatto benissimo. Non sanno fare massaggi cinesi. Certo, se gli anni fa. Ebbene pure ne sanno fare. Poi ti mettono questo guento, ti mettono anche tipo un olio che lo senti che ti brucia un po'. Un olio scaldante. Infatti per scivolare, per non graffiarti mica. Sì, ma la pelle tra pure nella pelle quindi, capito? Oltre che usarlo come lubrificante, penetrante. Aveva anche profumato, era. Certo, poi abbiamo avuto profumo pure. Quindi ti è andato tutto quello profumato. Oh, e quello lì che mi hanno suonato era profumato anche. C'era un profumo di tipo orchidea. E allora ho detto, non è di tanta città, c'è più niente vuoi fare. Beh, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buona cena quando la fai. Ciao ciao. Ciao già, alle prossime, ok, ciao. Mike Hotel Sul, 19, qualsiasi sotto un ascolto, passo. Avanti, 19. Buonasera, sono l'amico di quel ragazzo che si è presentato l'altro giorno, l'indicativo Mike Hotel Sul 18. K. Vabbè, noi usiamo nominativi qua, normalmente, sì, ho capito. Vabbè, da dove siamo andati? Male, puoi ripetere? Da dove stai modulando? Al momento sono sulla strada del Mezzonda che dal Mezzonda porta dove c'è l'ingresso con la discesa della punta e basta. Ah, ok, ma sei in macchina quindi? Sì, sono un veicolare, cioè un'antenna veicolare, un apparato un po' stabile. Ma se interessa qualcuno, io ho un'antenna veicolare in vendita, mai usata, la sto dando perché non la metto più in macchina e l'ho comprata e non l'ho mai usata. Se interessa qualcuno, fammelo sapere. Non prometto niente, mai, diciamo, anche per sapere il tipo di antenna, quella è a parte magnifica, da acquistare alla carrozzeria, prezzo e tutto il resto. La base magnetica te la devi comprare, è a parte, l'antenna la vedono sempre a parte. La base magnetica, la fusaro, la compri, ce l'ha. L'antenna è la Tubo 2001, è alta 1,80 m, e con l'antenna lì è come se avessi l'antenna sul tetto e un'altra. Portateci una antenna veicolare da 1,45 m. Ho capito, sì, ce l'ho anche io così. Ma hanno una diversa resa, capito? Come tipo d'antenna. L'antenna che ho io solitamente la usavo quando ero fermo, la mettevo sulla macchina, perché ne ho avuto diverse di quelle antenne. No, l'ultima che ho comprato non l'ho manco piazzata, è nuova ancora. Avvitare su qualunque base magnetica oppure una la sua? Ah no, puoi avvitare, ci sono le basi magnetiche della Lema proprio da Fusaro, le compri, quelle grandi, però la più grande devi comprare perché l'antenna è pesante. L'antenna già serata oppure bisogna fare regolazioni? Allora, normalmente è tarata, è un euro di stazionare l'antenna. Normalmente io quando le ho piazzate non ne avevano stazionari, le ho controllate con l'osmetro per ogni evenienza, però non ne avevano. Sono già tarate le antenne e le puoi usare anche così, capito? Però se è l'osmetro è meglio perché così controlli e sei più sicuro. E prima fai il 20, che c'è trombanda, e poi fai gli altri. Ok, vabbè dai, io sto andando perché sto andando a portare giù il cane, mi stavo salutando l'amico e devo andare. E comunque arrivo abbastanza bene qua, per avere un portatile. L'altro giorno ero in zona Porto d'Alghero, sui canali 15, ho sentito altre persone che abitano in zona Alghero, sempre EU-M. KK, sì, c'è una rotta anche Alghero, ma sapevo che era sul 12. Poi ricordo che avevo la casa, io abito a Fonseca, di Almentone, un palazzo, e c'era un'antenna verticale, una forma a tutti. Poi non so se la persona fosse un allenatore o era un'altra. da smantellarla. Se sta dicendo quello di fronte alla banca, più o meno, risulta di fronte alla banca. No, più avanti, l'arruestore praticamente poi ha fatto il palazzo più o meno a quell'altezza, dalla parte opposta della strada. Poi non lo so. Vabbè, c'era. Diceva prima un CB che faceva anche ascolto in banda radioamatoriale, c'aveva le antenne radioamatoriali e faceva solo ascolto, era un SLPVL. Poi ce n'è una, un so che è radioamatore, praticamente dalle macchine sono più gradini, quale caso è parte, c'è l'apparato di chiesa sui tender, un'antenna verticale e due di fianco inclinate. E penso che sia un radiomateriale, ma non ce l'ho presente per le mancine. Salendo sulla destra, gli edifici sono bassi prima di arrivare da dove c'è la banca, da dove c'è per l'Italia. Non lo so, non ce l'ho presente adesso dove sia. Vabbè, ci sentiamo, dai, grazie per il questo. Se interessa qualcuno fammi sapere. No, la do tanto, 50 euro te la do, capito, costa molto di più. Bene, vai, sentiamo, siamo d'accordo anche da trovarci. Comunque il mio nome è Giuliano e Sergio. Magari. Se no, boh, non lo so, vedi tu come puoi fare per su WhatsApp o qualche posto, ci troverà. Io sono anche scritto qualche gruppo su WhatsApp, se siete negati. Va bene. Che ci sentiamo qua, dai, poi magari ci mettiamo d'accordo, se ti interessa, ci troviamo lì al quadrato e via. Va bene, vediamo giorno e ora. Ci troviamo dove c'era il bar quadrato eventualmente. E lì al quadrato proprio, al centro, lì. Già vedi l'antenna mia. Capito? Non c'è problema. Tanto c'è l'offerta, ce l'ho sul mobile, non l'ho mai usata, nuova, ti compri la calamita e quella è un'antenna che spara da tutte le parti. Sì, poi c'è anche due apparati, quindi la vedete, vabbè, qua è veramente altro. Tu pensa che con quell'antenna dal parcheggio delle Querce sono arrivato a Londra. È una bella propagazione. Sì. Va bene, là. Comunque, se vuoi il mio numero di telefono te lo posso anche dare qua, non c'è problema. Va bene, voi fate collegamento tutti i giorni oppure a giorni a sera. Ma io provo a collegarmi tutti i giorni per prescindere, forse libero se mi trovo. Allora, noi di solito 6:30, 7:20, così a quell'ora. Vabbè, qualcuno c'è anche prima a volte, però quasi sempre sul canale 10 ci siamo, dai, quasi tutte le sere, capito? E se aumenta questa frequenza di persone va meglio, perché un po' se ne sta andando in quel paese, diciamo c'è molta poca gente, adesso prima era tutto pieno, tutti i canali erano piccoli. Beh, lì ci vado anche io, però uso anche l'apparato, cosa vuol dire? Si può usare l'uno e l'altro, Io ci vado lì, però uso anche gli apparati a una certa ora, ma non li vado frequente. No, io il PMR non ce l'ho, non mi interessa, perché chi va sul PMR poi molla la 27, la mia idea è quella, che sul PMR poi molli la 27. Ti devo lasciare, dai, che mi sta chiamando il cane, vuole scendere giù, dai, ciao ciao. Grazie, buona serata, grazie per il treno, attenzione alla zona dove si passa, dai, ci hai visto. Ma zona Luna e Sole? No, io non sono zona Luna e Sole, sono zona Via Valdella, quindi... Sì, ma i cinghiali arrivano sì sotto casa qua. A gennaio, prima mattina, che siamo andati in piscina di Monturno, le mie mattine di Monturno, sono quattro, vediamo il mio parole, ho dovuto aspettare che andasse le 10. è un casino, se ti si sbatta la macchina ti fanno danno. Dopo là, ci sentiamo, ciao ciao, a domani magari se ci si.